in primo piano. Buongiorno, buona domenica, benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24 dei quotidiani italiani. E come potete immaginare, tutti i quotidiani aprono e comunque hanno pagine e pagine sull'inchiesta di Roma, e se avete, diciamo, il coraggio, il tempo di leggerle tutte, probabilmente potrete farvi un'idea di quello che sta succedendo, un'idea probabilmente migliore di quella che si ha leggendo solo i titoli o magari alcuni pezzi di giornali che a volte hanno appunto titoli che tirano, diciamo, da una parte o dall'altra l'interpretazione. Però ripeto, bisogna avere molto coraggio, perché è sicuramente una vicenda complicata e soprattutto triste da leggere, triste da raccontare. Ma veniamo quindi cominciamo dal Corriere della Sera, che, come dicevo, apre su questo, anche se è un titolo piccolo, non è un titolo a tutta pagina né con caratteri cubitali, come se appunto ci fosse una sorta di pudore anche a raccontare queste cose, perché sono talmente gravi questi fatti che dovremo probabilmente parlarne per settimane, perché non è assolutamente chiaro dove andrà a finire questa inchiesta. Il titolo quindi: Roma, trovati i conti all'estero, altri nomi nelle intercettazioni. Questa è un po' la notizia, l'avete sentita anche nei GR. Le novità dell'inchiesta, che adesso cercano di spiegare dove sono finiti tutti questi soldi provenienti dalle tangenti, molti appunto, come spesso accade, in conti esteri. Allora ci sono da pagina 2 a pagina 6 i racconti dei giornalisti del Corriere, poi un commento che comincia a pagina 1 dello scrittore Emanuele Trevi, lungo i confini invisibili del mondo di mezzo, perché sapete che questo mondo di mezzo evocato nelle intercettazioni è in realtà un'invenzione letteraria di Tolkien. La fotonotizia del Corriere è legata a un fatto di cronaca avvenuto a Londra, e una mamma con una bambina di 3 mesi era al Claridge Hotel, uno degli alberghi di lusso più famosi di Londra, e allattava la bambina, ovviamente a seno scoperto, e le è stato chiesto di coprirsi il seno. Era in una sala da tè con appunto altre persone, e il politico inglese Nigel Farage, che sapete alle ultime elezioni europee e poi alle amministrative inglesi ultime, ha raccolto molti voti, è xenofobo e anti-europeista, ha dato ragione al Claridge, e da qui una serie di proteste. La fotonotizia è quella di alcune mamme che allattano di fronte ai cancelli del Claridge ieri a Londra. Il commento di Maria Laura Rodotà: allattiamo sì, ma senza farne una bandiera. La prima pagina della Repubblica: Roma, il prefetto manda gli ispettori, spunta una maxi tangente. Come vi dicevo, l'inchiesta non è affatto finita, ogni giorno, credo da qui a molto tempo, avremo delle novità. C'è un intervento di Walter Veltroni che trovate a pagina 3 della Repubblica: le colpe di una politica ridotta a tessere. La fotonotizia della Repubblica è però dedicata allo ostaggio americano Luke Somers, che era un reporter, era prigioniero di Al-Qaeda nello Yemen, ed è rimasto ucciso in un blitz delle forze armate americane, che in realtà aveva come scopo quello di liberare lui e un altro ostaggio. La prima pagina del Sole 24 Ore è dedicata, il titolo principale è dedicato all'economia: spread e titoli di Stato alla prova dei mercati. Naturalmente le borse, questa prova dei mercati sarà domani, e però sarà il primo giorno dopo il declassamento di Standard & Poor's, che è arrivato venerdì a mercati chiusi, quindi questo famoso declassamento dell'Italia, che adesso ha un rating BBB- da parte appunto di Standard & Poor's, che io ricordo sempre è la stessa agenzia di rating che aveva detto che Parmalat era un'azienda perfettamente affidabile circa una settimana prima del crack Parmalat. Quindi, per carità, nel frattempo saranno cambiate anche alcune cose all'interno di Standard & Poor's, questo però per dire che questi rating sono a volte opinabili. E comunque il Sole 24 Ore ha tutti gli indicatori a confronto, quali sono i rating che Standard & Poor's dà ai vari paesi europei e quali le ragioni. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore della domenica anche tantissimi approfondimenti sull'inchiesta romana, a partire dall'articolo di Roberto Galullo, l'andrangheta collection di Buzzi per le coop criminali, e poi un'intervista a Cantone, il commissario anticorruzione del governo, di Nino Amadore, tutti approfondimenti che trovate alle pagine 6 e 7 del Sole 24 Ore. come ogni domenica, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che si concentra su un'azienda quotata e cerca appunto di analizzarne i bilanci per dare consigli ai risparmiatori. Questa settimana è Fincantieri. L'obiettivo è il rilancio della redditività. Trovate poi tutti gli approfondimenti a pagina 18. E come ogni domenica, anche l'intervento di Bruno Forte, l'arcivescovo di Chieti Vasto, questa volta dedicato, prende spunto dall'intervento di Papa Francesco al Parlamento europeo. L'Unione Europea difende la dignità dell'uomo. E poi comincia in prima pagina, ma ne parleremo poi anche dopo, l'articolo che Carla Moreni dedica al Fideglio. Sapete, questa sera, oggi è Sant'Ambrogio, è la festa del patrono di Milano e come ogni anno da tempo immemore è la prima della Scala, cioè la prima opera della stagione scaligera, e questa sera è il Fideglio di Beethoven, il commento di Carla Moreni. La Stampa, la fotonotizia è ancora diversa perché Domenico Quirico ha fatto un viaggio, è inviato in questo momento in Libia e ci racconta che cosa sta succedendo in Libia, una delle tante, dei tanti teatri di guerra che continuano, dove si continua a combattere, ma a volte non, in questo momento i riflettori dei grandi media sono spenti. Domenico Quirico li riaccende. Libia, tra chi combatte gli jihadisti, e il virgolettato scelto per titolare questo reportage, vinceremo anche senza l'Europa. A 3 anni dalla caduta di Gheddafi continuano gli scontri e soltanto quest'anno, pensate, appunto un po' lontano dai riflettori, ci sono stati 2600 morti. Ma il titolo principale, anche in questo caso, mafia a Roma, danno enorme per il paese, il virgolettato che la Stampa sceglie per intitolare l'intervista a Gaetano Del Rio, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che parla di tantissime cose, tra cui anche il famoso giudizio di Standard & Poor's e poi naturalmente dell'inchiesta sulla mafia romana. E a proposito di Roma, quindi vediamo la prima pagina del Messaggero. In questo è il titolo più, diciamo, più grande che ho trovato sui quotidiani di oggi sulla inchiesta su Mafia Capitale, che ripeto è comunque l'apertura di tutti i giornali. Le tangenti nascoste in Svizzera, parlavamo appunto di questo sviluppo, uno spallone, sapete che è il termine con cui si indicano queste persone che si caricano di denaro contante e lo portano tra il confine italiano e il confine e oltre confine, lo portano verso la Svizzera. Uno spallone trasferiva nelle banche elvetiche le mazzette pagate ai politici. La fotonotizia però è dedicata alla partita di ieri tra Roma e Sassuolo, che è finita 2-2 con un pareggio rocambolesco. E sapete, è stata un po' l'occasione perduta per la Roma di accorciare la distanza con la Juventus, che quindi resta a 3 punti di distanza. Una bellissima intervista che forse dopo avremo tempo di leggere in parte, richiamata in prima pagina, a Rossella Orlandi, la presidente dell'Agenzia delle Entrate. Cambierò il fisco, meno controlli e documenti. È una donna eccezionale che ha un compito eccezionale, quello appunto di cambiare l'Agenzia delle Entrate e cambiare un po' in meglio il rapporto degli italiani con il fisco. La prima pagina di Avvenire invece è dedicata al messaggio che ieri Papa Francesco ha mandato ai cristiani dell'Iraq, che sapete sono perseguitati. In un video inviato ai fedeli sfuggiti alle persecuzioni dell'IS, vorrei essere lì con voi, i leader religiosi denuncino le violazioni dei diritti umani. E come sempre l'Avvenire ha il merito di accendere i riflettori su questioni che magari altri dimenticano. In questo caso la fotonotizia è dedicata alla Robin Tax, ultima chiamata a fermare la speculazione, perché martedì ci sarà un Ecofin chiamato a decidere appunto sull'ipotesi di introdurre una Robin Tax. All'interno poi vedremo anche un'ampia inchiesta meritoria, visto che naturalmente è un argomento sensibile per l'Avvenire, sull'inchiesta sullo IOR che tocca l'ex presidente Caloia, sospettato di peculato. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali dominate dai titoli sull'inchiesta di Roma. E allora vediamo il titolo di Libero e sentite che titolo: Falce e Lupara. La verità dai bilanci, la mafia romana è rossa. È sicuramente un meritorio lavoro quello che hanno fatto i giornalisti di Libero spulciando tutte queste carte. Veramente titolare così Falce e Lupara mi sembra però quasi rovini questo lavoro di attenta lettura delle carte, da cui emerge tra l'altro questa verità inconfutabile che il cosiddetto magna, quello che Libero definisce, ma è qui la definizione direi che ci può stare, è il magna magna delle COP di Buzzi, nasce con la giunta Veltroni. È infatti nella giunta Giunta Veltroni, che è appunto questo personaggio, Salvatore Buzzi, il presidente di questa COP 29 giugno, inizia a lavorare inizia a ricevere appalti dal comune. Poi la vittoria a sorpresa di Alemanno scombina i piani, solo allora i compagni si rivolgono al nero Carminati. Con Marino si torna alla normalità appena un mese fa, l'ultimo grande favore alla 29 giugno. Gli articoli in prima pagina sono di Franco Bechis e Maurizio Belpietro, vice direttore e direttore di Libero, e poi all'interno anche qui sei pagine in tutto con molti altri approfondimenti. Il Giornale, qui Affari e rese dei conti, un po' più morbido rispetto a Falce e Lupara. Il titolo: il PD impazzisce per la cupola, altro che mazzette nere, mafia capitale fa esplodere i democratici, tutti contro tutti. Anche in questo caso naturalmente c'è molto di vero, perché l'inchiesta di Roma sta provocando un terremoto nel PD romano e non solo. E poi un intervento di Vittorio Feltri: sindaci ladri o ciechi sono comunque tutti da cacciare. E anche in questo caso sicuramente un'opinione forte, che però anche con cui si può essere d'accordo. Insomma, un sindaco, ricorderete per esempio settimana scorsa in TV da Lilli Gruber, dichiara di non aver mai avuto, testuale, l'ho sentito con le mie orecchie, conversazioni con Buzzi, e il giorno dopo saltano fuori foto in cui sicuramente i due erano impegnati in una conversazione. Allora la versione di Marino è diventata che non aveva mai avuto conversazione di lavoro. Ecco, in questo caso, che abbia rubato o no, come dice Feltri, forse è comunque da cacciare per una colpevole ingenuità, chiamiamola così. Poi c'è un articolo dedicato di Antonio Signorini, dedicato a alcuni fondi che sono stati stanziati ieri per il progetto Periferie. Sentite il titolo: il governo regala uno spot da 200 milioni a Renzo Piano. Perché questo titolo? Perché questo progetto Periferie è un progetto di Renzo Piano che, come spiega anche Repubblica con altri toni a pagina 27, è un piano di cui appunto Renzo Piano, che sapete è architetto ma anche senatore a vita, aveva parlato a Matteo Renzi già in marzo, e tra l'altro è un progetto di Renzo Piano che si chiama G124, che è un progetto a cui Renzo Piano devolve il suo stipendio di parlamentare, di senatore a vita, ed è un progetto per la riqualificazione delle periferie. Perché il Giornale debba chiamarlo uno spot a Renzo Piano per me francamente resta un mistero. La prima pagina del Fatto Quotidiano: Marino e la COP di Buzzi, 30.000 euro di troppo. Anche in questo caso molti approfondimenti sulla questione dell'inchiesta romana. Vi leggo una parte dell'editoriale di Marco Travaglio, che si può amare o odiare, credo siano impossibili le mezze misure, ma sicuramente su quello che scrive oggi io personalmente sono assolutamente d'accordo, cioè sul fatto che non si vedono misure, in qualche modo nuove leggi che Renzi ha ricordato, basterebbe applicare quelle che ci sono, però forse di fronte a scandali come questo, o come quello dell'Expo di Milano, come tanti altri, delle nuove leggi forse ci vorrebbero. E scrive Marco Travaglio: che altro serve per invocare un decreto i cui requisiti di necessità e urgenza sono evidenti in tutto il mondo fuorché al Quirinale a Palazzo Chigi, copiato da uno a caso dei sistemi occidentali di lotta al malaffare? Che altro serve per raddoppiare le pene dei reati contro la pubblica amministrazione, così da assicurare un bel po' di galera a tutti i colpevoli, e per radiare dal consorzio pubblico tutti condannati per reati dolosi, o per bloccare la prescrizione dopo il rinvio a giudizio come in tutto il resto dell'Occidente, o per importare dagli Stati Uniti il test di integrità con agenti provocatori autorizzati a offrire soldi ai politici e ai pubblici amministratori appena eletti e ad accompagnarli in cella chi li accetta? Forse attendono davvero Jack lo squartatore e non vedono che è fra noi da un pezzo. Il Manifesto ha una pagina dedicata alla prima pagina con una grande fotonotizia, il titolo: all'ultimo respiro. Qui il Manifesto sceglie di continuare a seguire quello che sta succedendo negli Stati Uniti, a New York in particolare in questo momento, dove c'è quella che il Manifesto definisce disubbidienza civile contro il razzismo istituzionale che continua a mietere vittime. Sapete che lo spunto è stato un po' di queste proteste, le due uccisioni di due giovani afroamericani da parte di poliziotti, ma è stato un po' poi scoperchiato tutto questa parte, diciamo, grigia o nera dei rapporti tra bianchi e afroamericani in America, tra polizia e giovani afroamericani, perché spesso appunto vengono cioè la percentuale di arresti è troppo alta, e soprattutto c'è ancora questa pratica di strangolare l'arrestato, che in realtà sarebbe fuori legge ma si scopre viene ancora usata. Da qui il cartello che molti usano, I can't breathe, non riesco a respirare, come appunto modo per sottolineare il motivo di queste proteste, perché le persone per ora stanno solo sfilando in molte città, per ora non ci sono stati disordini, a parte naturalmente quelli a Ferguson, dove c'era stata l'uccisione appunto di uno dei due afroamericani che ha innescato questa ondata di proteste. Vi segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, con appunto ieri la vittoria, il pareggio della Roma, con questo quello che la Gazzetta definisce il Sassuolo Show, perché il Sassuolo, questa piccola squadra che però quest'anno sta giocando molto bene, che ha appunto bloccato la Roma con il 2-2. E poi vi segnalo dalla prima pagina della Gazzetta, l'ho trovata anche su altri giornali, una notizia molto bella, come una bella storia di sport, la storia di Lindsay Vonn, che è una sciatrice, ormai ha 30 anni e ha avuto un gravissimo incidente 3 anni fa, ha fatto un anno e più di fisioterapia, avrebbe dovuto rientrare per le Olimpiadi invernali, per i mondiali, non ci è riuscita, invece adesso finalmente è tornata a sciare e dopo 2 anni di stop ieri ha vinto una discesa libera, quindi fenomenale Vonn, titola la Gazzetta, dopo 2 anni di stop trionfa in discesa. Dalle pagine interne dei quotidiani vi segnalo una pagina del Corriere della Sera, un approfondimento di Enrico Marro sulle pensioni, ci ricorda un po' come quello che succederà a tutti, con degli schemini riassuntivi, con gli anni che vanno dal 2014 al 2030, cosa succederà a tutte le persone che appunto in quegli anni vanno in pensione. 3 anni dopo la riforma Fornero, i piani per rendere più flessibile l'uscita ai lavoratori vicino all'età del ritiro, e poi questa opzione donna, che sapete sono delle condizioni particolari per le lavoratrici donne. Molto divertente la pagina intera di Massimo Sideri, dedicata a quella che viene definita il sogno o l'illusione di cancellare le email che inviamo per errore. Lo spunto è l'annuncio di Google, che ha spiegato appunto che forse questo un giorno potrebbe essere possibile, però in realtà questo fa riflettere sulle conseguenze di quello che facciamo ogni giorno in rete, un po' inconsapevolmente. Per spedire un'email basta cliccare magari per errore su invio e poi le conseguenze sono ci sono delle conseguenze irrimediabili, perché poi andare a recuperare un messaggio inviato e magari già letto, o spiegare che non era quello che intendevamo, quando poi verba volant scripta manent, anche se sono solo su uno schermo di un computer e fatti di pixel, appunto, può essere difficile. Non ho, come avete visto, non ho di proposito letto pezzi su questa inchiesta, e faccio un'eccezione per l'intervista che c'è a pagina 4, fatto da Concetto Vecchio a Micaela Campana, che è responsabile welfare del PD, è una bersaniana, e siccome nelle intercettazioni ci sono degli sms, dei simpatici sms mandati a Buzzi, questa intervista è abbastanza surreale, quindi ve ne leggo alcuni brani. Le chiede Concetto Vecchio: ma tra lei e Buzzi correva una certa confidenza, come spiegare diversamente l'SMS che inizia con bacio grande capo? E la signora risponde: ma no, quello è il mio modo di esprimermi, l'avevo scritto a milioni di persone, milioni di persone. E Concetto Vecchio le chiede: conferma che lui le aveva chiesto di presentare un'interrogazione alla Camera per la sua COP? Non l'ho presentata. E perché? Non mi convinceva. Ricorda su cosa verteva nello specifico? Non lo ricordo. Com'è possibile che non lo ricorda? Il fatto decisivo è che non fu presentata. Questo è facilmente verificabile nella banca dati del sito della Camera. Chi era per lei Buzzi? Il capo della più grande COP del Centro Sud, un importante dirigente nazionale di Lega COP, a capo di un'impresa che fino a martedì scorso era un fiore all'occhiello nel campo sociale e nel reinserimento dei detenuti, e di cui tutta la sinistra andava orgogliosa. Ultima domanda: si dimette? Voglio leggere tutte le carte, è stato pubblicato solo la parte a me sfavorevole, provo imbarazzo, rabbia, mi difenderò anche con le querele. E va bene, buona fortuna. E dalle pagine interne di Repubblica, in questo caso pagina 13, un approfondimento sulla questione delle province. Abolite, non abolite, abolite in parte. Quello che Paolo Griseri ci spiega è che c'è di fatto un cortocircuito tra i tempi della riforma Delrio, che prende nome appunto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio, e il taglio di 1 miliardo dei fondi statali. I nuovi compiti non sono ancora stati ripartiti tra le varie amministrazioni, gli impiegati sono nel limbo. E poi forse, insomma, è un momento in cui si sta pensando magari a piccole vacanze, c'è il ponte in questo caso, ma anche per Natale i soldi quest'anno, lo sappiamo, sono per quasi tutti pochi a disposizione, il budget vacanze. E allora vi segnalo dalla Stampa una pagina dove si elencano 10 buone ragioni per vedere Genova. Genova è una città secondo me splendida, e c'è un'intervista di Maurizio Maggiani, scrittore genovese: la città della mia meraviglia si libera e si ripulisce da sola. E poi appunto queste 10 regioni 10 ragioni spiegate da Teodoro Chiarelli, inviato della Stampa a Genova, per visitare. Piagata ma non piegata, la Superba, che è il soprannome di Genova, ha voglia di essere riscoperta perché non c'è fango che tenga. Sul Sole 24 Ore trovate, a proposito di tasse, di budget ridotti anche a causa di tutte le tasse che ci stanno piovendo addosso, i mutasi, il saldo costerà 12,5 miliardi, si sta avvicinando infatti la scadenza per pagare, è il 18 dicembre per molte città, li mutasi, e il Sole 24 Ore ci spiega come la doppia tassa porta a 100 milioni il numero dei bollettini, possibile però utilizzare un solo F24, almeno questo. Dalle pagine dei commenti del Sole 24 Ore vi segnalo un approfondimento di Isabella Bufacchi sul rapporto tra digitale e carta, i media vincono con il digitale, una forte diversità può garantire nuovi modelli e nuovi business. Isabella ha preso un po' in esame le strategie dei grandi quotidiani americani e delle aziende che li gestiscono, i big americani a confronto. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo alle pagine interne dei giornali e, come vi avevo anticipato, la bella intervista a Rossella Orlandi a pagina 11 del Messaggero, la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, che prima ho detto donna eccezionale con un compito eccezionale, quello di cambiare l'Agenzia delle Entrate e cambiare il rapporto tra gli italiani e il fisco, e spiega appunto quali sono i suoi piani, o diciamo li ripete ancora una volta, sta appunto cercando in questi mesi, oltre al suo lavoro all'Agenzia delle Entrate, anche di comunicare questi cambiamenti. Allora le chiede Luca Cifoni, il 2015 è l'anno della dichiarazione precompilata, un passaggio importante, non c'è il rischio di creare troppe aspettative visto che buona parte dei contribuenti non sarà in grado di accettarla così com'è? E Rossella Orlandi risponde, noi pensiamo che un quarto degli interessati potrà farlo, ma è solo la partenza di un percorso, da gennaio inizieremo a dare a tutti il PIN in modo diretto, mentre prima serve un doppio passaggio, a quel punto il cittadino se vuole fare la precompilata potrà andare sul nostro sito oppure rivolgersi agli intermediari. E poi appunto tutte le altre spiegazioni. Vi segnalo dal Manifesto un approfondimento a proposito di questioni che vengono trattate a intermittenza dai giornali, ma non per questo la cronaca si ferma, un reportage dalla Grecia di Pavlos Neranzi e da Salonicco, la lunga maratona dell'austerità greca. Atene blindata dopo 3 tagli consecutivi, nuove riduzioni del 20% a pensioni e stipendi in nome della Troica, sapete, BCE, Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, per scongiurare il voto anticipato chiesto da Syriza, il Premier. Vi segnalo poi, sempre a proposito di questioni così trattate solo di striscio quando c'è un forte fatto di cronaca, un approfondimento a pagina 25 dell'Avvenire sul Messico, dal Messico ridotto a terra del silenzio. Qui il reportage è di Lucia Capuzzi che ci spiega, cerca di spiegarci ancora una volta quale fortissimo potere abbiano in Messico i cartelli della droga. L'orrore che non trova posto nemmeno nelle parole, così scrive l'Avvenire, a sud del Rio Bravo, con la complicità di pezzi dello Stato si rivela il dramma di un paese dove 100 giornalisti nell'ultimo anno sono stati uccisi e 2 di loro, però Anabel Hernandez e Diego Osorno, continuano a sfidare il pericolo e a denunciare il clima di violenza. E poi una bella intervista a Alberto Tomba, che il 19 dicembre compirà 48 anni e che ci racconta, così riassume l'intervista l'Avvenire, vincevo ridendo, ora non si fa più. Dal Fatto vi segnalo una bellissima intervista di Silvia Truzzi a Luciana Castellina, che ci racconta, il sommario è Il secolo breve non fu soltanto orrori, sapete il secolo breve, così viene definito quello che è finito 14 anni fa, ora voglio fondare il partito dei nonni. Luciana Castellina ancora bellissima, intorno a più o meno 80 anni, ma ancora una bellissima signora, giornalista, deputata, scrittrice, dal Partito Comunista al Manifesto, una vita al servizio della politica, tra amori celebri, arresti e memorabili battaglie. Ma veniamo alle pagine culturali, cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore, di cui poi si parlerà anche in Si può fare naturalmente con Alessio Maurizio. Allora vi cito come sempre il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si chiama Navigare. La citazione viene da un discorso fatto dal presidente Franklin Delano Roosevelt, FDR, nel 1938. Per raggiungere il porto si deve navigare, non gettare l'ancora, navigare, non andare alla deriva. Uno dei grandi archetipi universali è il vascello che riporta Ulisse alla sua Itaca. La navigazione è la metafora della vita che procede ora su mari tranquilli, col rischio della fissità, ora in mezzo a bufere ed è terribile in quel momento essere nave senza nocchiere in gran tempesta, per usare un celebre endecasillabo del purgatorio dantesco. Sul tema abbiamo proposto un appello lanciato dal presidente Roosevelt nel 1938. In esso vengono denunciati due pericoli, quello dell'inerzia rassegnata e scoraggiata, gettare l'ancora, e il rischio della deriva per indifferenza. Per raggiungere la meta è invece necessario navigare senza sosta e con una stella polare che impedisca la dispersione negli spazi sterminati dell'esistenza o la rinuncia all'avventura per paura o pigrizia. E poi naturalmente la rubrica del nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, Memorandum di Roberto Napoletano, che sapete fa questi piccoli reportage dall'Italia, da tutti gli incontri che ha con imprenditori, protagonisti della società della cultura italiana. In questo caso ci racconta da Piacenza l'incantesimo spezzato, il segreto, quello che lui chiama il segreto della Bassa, la Bassa Padana, di cui appunto in cui appunto Vicenza si trova. Poi vi segnalo, poi di tutto il resto ripeto vi parleranno ancora Alessio Maurizi e Armando Massarenti, che è il direttore del supplemento della Domenica. Vi segnalo a pagina 3 del Domenicale una lunga recensione proprio fatta da Armando della nuova edizione dello Zibaldone. Lo Zibaldone, forse almeno per me, secondo il mio modestissimo parere, il capolavoro di Giacomo Leopardi, che raccoglie tutti i suoi pensieri, e viene appunto, c'è questa nuova edizione di Donzelli in uscita, 1280 pagine, pensate, nuovo Zibaldone riordinato secondo i progetti e le schedature del poeta, permette di leggere meglio il percorso del suo pensiero tra amore dei lumi e saggezza degli antichi. Un supplemento dedicato come ogni anno alla prima della Scala, quindi Il coraggio è femmina, questo è il titolo del pezzo di Quirino Principe. Il nuovo anno del teatro milanese si apre con l'opera di Beethoven, Il Fidelio, appunto, il cui protagonista, sotto sembianze maschili, nasconde una moglie che cerca di salvare il marito. Trovate speciali sul Fidelio anche allegati alla Scala, Fidelio, amore e libertà, e anche allegati a Il Giornale, Fidelio saluta Milano, Barenboim, ultimo atto. Sapete che direttore musicale della Scala, Barenboim, appunto conclude con quest'opera la sua collaborazione con il teatro milanese. La lettura del Corriere della Sera, il supplemento culturale del Corriere della Sera, la copertina è fatta da Paolo Masi. Sapete che la lettura da sempre, da quando ha iniziato le pubblicazioni, un pochino più di 3 anni fa, la prima pagina è lasciata completamente a un artista, e poi bisogna aprirlo per scoprirne i contenuti. Non c'è un sommario, insomma, in copertina. Questa volta devo dire, a me piace molto Alessandro Piperno, sapete che lo segnalo sempre quando scrive questi lunghi articoli, uno scrittore, e oggi pagina 2-3 della lettura: siamo tutti, chi più chi meno, snob, quelli che vanno allo stadio con il New Yorker, quelli che sfogliano riviste di gossip all'università, l'imprenditore che va al lavoro in bici, l'impiegato che viaggia in prima classe, quelli che guardano film in lingua e quelli che lodano i cinepanettoni. C'è un po' l'etimologia di questo termine, della parola snob, che sapete è un acronimo inglese tratto, si dice, da sine nobilitate, e Alessandro Piperno fa appunto una dotta e divertita dissertazione su che cosa vuol dire, se vuol dire ancora qualcosa, essere snob oggi. L'infografica, la pagina dedicata ai visual data della lettura, uno stadio moderno fa bene al calcio, un'infografica che appunto ci spiega come gli impianti vecchi poi facciano diminuire gli spettatori. Solo per quanto riguarda l'Italia, solo la Juventus ha una struttura di proprietà e da allora, guardate un po', non ha più perso lo scudetto. E poi un bel pezzo di Vincenzo Trione, che è uno dei critici d'arte del Corriere della Sera, ma è anche stato scelto per curare la prossima Biennale d'Arte di Venezia. In questo caso un excursus intitolato Nella bottega di Sigmund Freud, esploratori dell'onirico, profeti dell'inconscio, così le teorie psicoanalitiche hanno ispirato e ispirano l'arte. Supplemento del Messaggero Macro, dedicato, prende spunto dal furto dell'opera in bronzo di Medardo Rosso, che è stata rubata venerdì scorso alla Gnam, questa opera che si chiama Bambino Malato, e si fa appunto un po' lo spunto per fare il punto, scusate il gioco di parole, sul quello che il Messaggero definisce il saccheggio perpetuo. Il furto della scultura di Medardo Rosso non è che l'ultimo in ordine di tempo. Il patrimonio dei beni culturali in Italia è tra i più depredati al mondo. Si calcola che vengano violati 2 musei e 25 chiese al mese. Si cercano ancora, pensate, un'opera di Caravaggio e una di Klimt sparite dai nostri musei. la copertina di Alias del manifesto dedicato al nuovo libro di Dave Eggers, Il Cerchio. La domenica invece della Repubblica un lungo reportage di Giampaolo Visetti da Guyu in Cina, che è il cimitero, viene definito il cimitero dell'high tech, dove finiscono i nostri smartphone e PC. A Guyu, Cina, capitale mondiale dei rifiuti elettronici, reportage dal posto più inquinato del pianeta. Dalla Repubblica riesco ancora a segnalarvi solo, come sempre, la pagina di Walter Citi dedicata a un poeta. Oggi è Derek Walcott, che è un poeta nato nel 1930. L'Itaca di Walcott è un'isola caraibica. L'origine geografica è il trauma con cui il poeta ha lottato tutta la vita. Una pagina intera, come sempre, sulla poesia e sulla figura di David Walcott. Era l'ultima segnalazione che riesco a fare. Grazie a Peter Bescapè in regia. Una buona domenica a tutti.